persone ti dicono non potrai mai capire, ma lo stesso ci provo a reagire. Rappresento, punto fisso è quel che sento, ciò che penso io lo dico ogni momento. Non c'è nessuno in grado di zittire le parole, al massimo può rendere neutrale la mia azione. Evoluzione di quest'uomo e del suo io, mi prendo un attimo e reagisco al cambiamento che avverto qui dentro. La gente senza scrupoli ha modificato me, chi mi sta intorno nel tempo. Han provato a fermarmi dicendomi stronzate, han provato a fermarmi mandandomi da un giudice. Sì signore, mi ritengo recidivo, combatto le mie cause, io sono un uomo libero. Ai tuoi telegiornali io non ci credo più, le tue televisioni io non le guardo più. Vedo la realtà dalla parte della gente, vorrei essere la voce di chi al mondo non ci sente. Andando avanti vedo sempre più persone che vogliono far legge la propria ragione, ma ritengo che ci sia un'unica condizione, che la gente pensi quel che vuole come quando crede. Praticamente è una cosa che succede, dire democrazia ma volere il potere, far tacere che ha un'idea diversa. Mi scusi signor presidente, ma la causa persa. E poi senti la gente, ti dice non pensare. E senti la gente, no no non puoi parlare. Le persone ti dicono non potrai mai capire, ma lo stesso ci provo a reagire. Senti muchacho, cerca de estar quieto. Due tasse che te pago, te mio cazzo te di dietro. Sono stufo de pagare e farmi umiliare da quattro governanti che me fanca da cagare. Giri con la macchina che ti ho pagato io, giri con la scorta che ti ho pagato io. Vai al ristorante e pago sempre io. Uè ciccio bello, non son mica padre Pio. Per tutto quello che ho vissuto fino ad ora, per la mia gente, i massicci, chi non ha mollato ancora, voglio dirvi la mia su come gira questo sistema di merda e la sua sporca ipocrisia. C'è chi dopo due giorni di lavoro va in pensione, al Parlamento ci stanno solo merde ben vestite. Il mio lamento non è così per dire, ma è la voce di un popolo che è pronta a reagire. E senti la gente, ti dice non pensare. E senti la gente, no no non puoi parlare. Le persone ti dicono non potrai mai capire, ma lo stesso ci provo a reagire.